credi che dopo diciamo, il flop comunque commerciale che è stato Grindhouse, torneranno a lavorare insieme, continueranno oppure come la vedi? Ma sì, penso di sì. In realtà penso di sì, perché alla fine il flop commerciale di Grindhouse penso derivi da tutta una serie di fattori esterni al prodotto in sé, che comunque lo zoccolo duro dei fan poi glielo ha dimostrato, insomma era più che riuscito ed è stato più che apprezzato. Quindi non solamente per quello penso torneranno a lavorare insieme, ma anche perché proprio sono veramente amici e si divertono a lavorare insieme, penso che sia la condizione primaria necessaria per fare del tipo di cinema che fanno, soprattutto. Non so su che tipo di progetto, però su qualcosa simile a quello che hanno già fatto. Penso che insieme possano fare faville proprio in quel tipo di commistione di generi, come era già dal tramonto all'alba, come è stato Grindhouse, operazioni di questo tipo, che nessuno fa poi, peraltro, che nessuno fa. Recuperi del vecchio cinema di genere, in quel senso, quella direzione lì. Leggendo il libro sempre ho scoperto che io convinto di averli visti tutti sui film, invece questo Road Racer mi ha colto di sorpresa. Tu sei riuscito a vederlo? Sì, Che l'ho tipo di visto film e non è molto facile da vedere in effetti, è? Sì. perché doveva uscire un DVD, è stato più volte annunciato, curatissimo, ricco di extra come di solito sono i suoi DVD, però poi non so perché non se ne è saputo più niente, penso per ragioni di accordi fra case di distribuzioni, non è più uscito. Resta nel limbo, diciamo, è stato rimandato, non si sa se uscirà mai. È un peccato perché anche lì c'era un commento audio, una scuola di cinema che sono quegli extra che fa sempre Rodriguez spiegando come proprio praticamente ha fatto il film, quali trucchi ha usato, eccetera. E quindi si trova in rete oppure si trova su internet il DVD, ma è un'edizione un po' scarsa così di contenuti anche. Proprio da un punto di vista della confezione, si trova sia in francese che in inglese, mi sembra in DVD australiano. E il film in realtà è molto carino, è un peccato che non si riesca a vedere perché innanzitutto è il primo film in pellicola 35 mm che ha girato, perché il mariachi è stato gonfiato a 35 mm una volta comprato e distribuito, ma è il primo film a 35 mm che ha girato effettivamente. E poi è stato praticamente girato con la stessa tecnica, allo stesso modo del mariachi, ma con soldi e tempi e una troupe hollywoodiana. A differenza del mariachi, che era stato girato praticamente da lui e da due o tre amici, ma in pratica faceva tutto lui. E Rodriguez è stato il primo film dove lui si è scontrato con la mentalità hollywoodiana del fare cinema. Si è ritrovato addosso tutta una troupe di tantissime persone che lui era arrivato al punto di chiedersi: ma come mai ci stanno tutte queste persone intorno al set? A che cosa servono effettivamente? Se si potessero cacciare, no? Perché sembra brutto, però se si potessero piegare veramente oppure no, se erano lì tanto perché le voleva il produttore o cose del genere. E questo ha portato a tutta una serie di dissapori sul set che lo hanno portato poi negli anni a crearsi una sua troupe, perché poi lui non è che lavori da solo, ovviamente, perché sarebbe impossibile. Ricopre tutta una serie di ruoli, però si è affidato a una sua troupe, probabilmente perché vuole un tipo di etica sul lavoro che non tutti hanno. Si trovò male ai tempi di Rodriguez anche perché faceva parte di una serie televisiva dove le varie troupe venivano scambiate, si passavano le truppe da un film TV all'altro e quindi probabilmente essendo le riprese di Rodriguez avvenute verso la fine di questa serie televisiva, gran parte della troupe era demotivata, comunque era stanca e non teneva i ritmi di Rodriguez, che innanzitutto erano un paio d'anni che non girava più niente dopo il clamore del mariachi e quindi era carico a mille e voleva tornare alla regia. E poi comunque tutte queste novità a portata di mano e tutti i soldi che una produzione hollywoodiana comporta e i mezzi, anche se poi ha realizzato il film come voleva lui e con i tempi che voleva lui, ci ha messo addirittura un giorno meno di El Mariachi, fu girato in 2 settimane, Rodriguez si girarono in 13 giorni. Però è molto carino perché esplora diversi temi che poi non ha più affrontato, anche del disagio giovanile, del tempo che passa e che bisogna saper impiegare al meglio, e tutto inserito in una serie di battibecchi fra questo ribelle alla James Dean, che era interpretato da David Arquette al primo ruolo, e lo sceriffo locale, sullo sfondo di queste avventure un po' alla Happy Days, un po' alla Grease. Infatti il modo di porre il film di Rodriguez ai produttori fu: immaginatevi un film alla Happy Days o alla Grease, dove però tutti alla fine muoiono, qualcosa del genere. Questa fu la proposta del film ai produttori, insomma. È carino, però è un film molto, non è male, anche ha una certa energia, è molto simile al Mariachi nella composizione delle inquadrature, molto da fumetto, nei tagli un po' obliqui delle sue riprese. Non è, ma è un peccato che non sia uscito quel DVD che ti dicevo.